Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro e ben ritrovati all'appuntamento che Radio 24 dedica al mondo dell'autotrasporto. Nel sommario di oggi l'agenda 2016 della Commissione Trasporti dell'Unione Europea per i temi che riguardano da vicino la logistica, l'emergenza, sicurezza nei porti italiani e l'aggiornamento sulla situazione della viabilità in Sicilia. In apertura quindi ci occupiamo dei lavori della Commissione Trasporti di Bruxelles. Isabella De Monte è una dei componenti della Commissione. Buongiorno e bentrovata ad Hashtag Autotrasporti. Grazie a voi. Siamo all'inizio di un nuovo anno, ecco, proviamo a stilare l'agenda 2016 della Commissione Europea focalizzando la prospettiva sulle questioni che riguardano da vicino l'autotrasporto e la logistica. Beh, interessante parlare della prospettiva perché abbiamo veramente molte cose all'agenda della Commissione Trasporti e Turismo. Io cito sempre il turismo perché comunque sono due argomenti sempre connessi. Noi abbiamo una grandissima possibilità anche di incentivare il turismo se riusciamo a essere efficaci con i sistemi di trasporto. Ma la questione che noi abbiamo sempre posto fin dall'inizio anche alla commissaria in serie di audizioni è quella del cabotaggio, perché comunque continua ad esserci un problema di dumping sociale e quindi di trasferimento in sostanza di attività in paesi che hanno dei costi inferiori, che possono praticare delle tariffe più basse. Il problema resta ancora quello dei controlli. Quindi in pratica ci sarà il pacchetto stradale che interessa questo argomento. Cosa conterrà questo pacchetto? Ma al momento è stato solo annunciato da parte della Commissione, quindi ancora non si conoscono i contenuti. Ecco, sicuramente ci saranno degli aspetti che riguardano la sicurezza, che è un po' il tema dominante, visto anche la situazione in cui ci troviamo, ma diciamo in generale, ecco, è senz'altro importante puntare molto sulla sicurezza, visto quanto accaduto anche nel settore aereo. Ma io penso che il tema principale appunto sarà quello di affrontare delle spinose questioni che ormai sono state evidenziate da tempo, sono conosciute. La Commissione si era riservato un tempo anche necessario per fare delle statistiche, per capire come si stavano muovendo anche gli Stati membri, con quali risultati, per cui l'agenda del 2016 vede questo argomento tra quelli prioritari, ma ce n'è molti altri. A proposito di dumping sociale, ci sono paesi come la Germania che hanno introdotto il salario minimo, su questo punto però l'Europa non è d'accordo. No, perché soprattutto per il fatto che avevano introdotto questo divieto anche per le merci semplicemente in transito, questo non era ammissibile perché va contro la libertà di circolazione e quindi c'è stato una adesso non so se tratta esattamente di un pilot o veramente già di una notifica di infrazione, però comunque su questo c'è l'opposizione della Commissione Europea. Altre soluzioni sono state ad esempio quelle della Francia in merito all'obbligo di dimostrare il pernottamento in un determinato luogo. Ecco, l'Italia ha introdotto il sistema dell'inversione dell'onere della prova. Ecco, comunque sono tutti segnali che vanno nel senso di un regolamento che ormai non dà più certezze e quindi va sicuramente rivisto. La legge di stabilità approvata a dicembre contiene il mare bonus e il ferro bonus, cioè reintroduce gli incentivi alle imprese che trasferiscono i trasporti via mare o via ferrovie. Solo per il 2016 si tratta di un contributo di 65 milioni di euro, incentivi che ora anche l'Europa giudica legittimi. Sì, è sempre il tema un po' di questi bonus legato un po' agli aiuti di Stato, ma la priorità è assolutamente quella di portare il trasporto merci sulla tratte via mare, tratte via ferrovia. E a questo si ricollega anche la nostra risoluzione appena approvata al Parlamento europeo che riguarda la mobilità urbana, perché tutto è connesso dalla mobilità urbana alle grandi reti europee. La grandissima parte, il 70% delle merci viene trasportata via mare e c'è una necessità, come dicevo prima, di sicurezza ma anche di riduzione delle emissioni, e il tema è quanto mai di attualità, che impone di andare sempre di più verso appunto questo tipo di soluzioni di trasporto. Isabella De Monte, componente la Commissione Trasporti dell'Unione Europea, grazie e buona giornata. Buongiorno e buon anno a tutti. Parlavamo poco fa degli incentivi mare bonus e ferro bonus reintrodotti dalla legge di stabilità per favorire i trasporti combinati a favore dell'ambiente. Infatti prima si chiamavano eco bonus, poi allo scopo di non confonderli con i contributi per gli interventi nell'edilizia sono state coniate queste espressioni. E a proposito dell'intermodalità strada-rotaia arrivano i dati relativi al traffico sulla cosiddetta autostrada viaggiante Novara-Friburgo. Durante il 2015 lungo questo percorso combinato hanno viaggiato 100.500 veicoli industriali, cioè lo 0,4% in più rispetto al 2014, con un tasso di riempimento dei treni che si è assestato sulla media dell'85%. Un risultato significativo, tanto più se letto alla luce di alcune condizioni di fondo che si sono determinate nel corso dell'anno, come per esempio il calo del prezzo del gasolio. E sempre a proposito di dati, segnali moderatamente positivi arrivano dal barometro dei trasporti Timocom, che monitora le offerte di carichi di merci e mezzi in tutta Europa. Seppur seguendo un andamento altalenante, il 2015 si è chiuso con un rapporto carichi merci di 47 a 53, superiore di 2 punti percentuali al dato complessivo del 2014. Tra le emergenze di questi mesi, lo dicevamo anche prima, quella innescata dal terrorismo è indubbiamente la più pressante, impone un rafforzamento dei dispositivi di controllo e di sicurezza non solo per le persone ma anche per le merci in transito. Porti ed interporti rappresentano crocevia da monitorare con estrema attenzione e in termini di security il porto di Savona Vado può essere definito uno scalo all'avanguardia. Il porto ligure infatti è monitorato da 120 telecamere dell'ultima generazione, una specie di grande fratello tra le banchine e i varchi di accesso. Rossana Varna è la responsabile del settore telematica dell'autorità portuale. Questo sistema dispone quindi di 120 telecamere divise tra Savona, tra il porto di Savona e il porto di Vado Ligure, e questo sistema rende disponibili le immagini agli utenti accreditati attraverso un portale web che è fruibile anche nella versione mobile. Questa è una cosa molto utile e molto, diciamo, importante per garantire alle forze dell'ordine in caso di problemi che dovessero riscontrarsi, problemi di security, di poter intervenire anche da remoto, prendere visione delle situazioni di criticità e garantire quindi una security portuale buon livello. Attraverso, devo dirlo, anche finanziamenti di obiettivo 2, che erano finanziamenti europei, quindi abbiamo potuto stendere una infrastruttura telematica che rende possibile questa cosa, e quindi avere dei collegamenti ad alta velocità di dati, in modo che telecamere ad alta definizione diano delle immagini veramente importanti, ecco, per l'uso per cui sono state installate naturalmente. Come previsto dalla legge di stabilità è di nuovo operativa la sezione speciale del Fondo di Garanzia per l'Autotrasporto. Con una nota, Confartigianato Trasporti ricorda le modalità per accedervi. Riguardano la valutazione effettuata sulla base dei modelli di scoring, cioè l'analisi sintetica della situazione economica e finanziaria dell'impresa, e la concessione della garanzia diretta fino alla misura massima dell'80% dell'ammontare dell'operazione finanziaria. Ora uno sguardo alla rete stradale. Torniamo in Sicilia, in particolare sulla 19, la Palermo-Catania, dove da ormai 2 mesi è stata aperta la bretella che bypassa il viadotto Imera investito da una frana lo scorso aprile. Il punto della situazione, le prospettive per rendere la 19 un'arteria più moderna e sicura, da Giovanni Pistorio, assessore regionale alle infrastrutture. La situazione è in linea con i programmi. Il bypass funziona perfettamente e il traffico scorre in modo assolutamente fluido. È stato abbattuto la parte di viadotto che era oggetto della frana e entro i 2 anni programmati avremo la riattivazione piena della strada. La cosa più importante è che l'ANAS, che è titolare dell'intervento, ha programmato nel quadriennio in corso un intervento complessivo di 842 milioni di euro sull'A19 della catena di Palermo per fare di questa autostrada un'autostrada moderna, efficiente, assolutamente in linea con gli standard che devono essere garantiti ai nostri cittadini. Per Hashtag Autotrasporti oggi è tutto, grazie per l'attenzione, da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.